America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Merry Christmas everybody. Il messaggio natalizio del presidente Obama: dare, condividere. Ne ho parlato nella trasmissione di lunedì, quando vi ho raccontato del party natalizio a cui sono stato invitato alla Casa Bianca, dove ho incontrato il presidente, la moglie, questa straordinaria atmosfera di dare, di restituire, che è un po' il messaggio di fondo americano. Ecco, naturalmente noi tutti in Italia leggiamo di storie di grandi donazioni, da quelle più alte, Bill Gates che decide di dare miliardi di dollari, Warren Buffett. L'altro giorno c'è stata una donazione qui a New York di 350 milioni di dollari per la Cornell University, perché potesse costruire un'intera università a Roosevelt Island e quindi creare una branch, una succursale scientifica qui nel cuore di Manhattan, che potrebbe portare addirittura 20.000 posti di lavoro. Ma la filantropia in America è diffusa, direi a tutto campo. La filantropia significa dare 5 dollari, significa fare volontariato, significa lavorare, significa fare donazioni di ogni genere. Ho visto un comunicato stampa l'altro giorno che mi ha colpito. Il comunicato parla di una donazione di 10 milioni di dollari. Ecco, 10 milioni di dollari donati da degli individui. Per fare che cosa? Per fondare un nuovo, costruire un nuovo museo alla University of California, Davis, che è vicino a San Francisco. E mi ha incuriosito perché appunto è una donazione importante per creare un museo in un'università. E poi, leggendo, mi sono accorto che c'è coinvolta in questa donazione, nella partecipazione a questo progetto, anche una filantropa italiana, Maria Manetti Farro. E dunque c'è questo spirito, diciamo, di contagio che arriva fino a noi. Maria Manetti Farro, ho cercato di ricostruire un pochettino la sua storia, sta a San Francisco, ha fatto questa donazione con Jan Schramm. Ci sarà il nome di Jan Schramm e Maria Manetti Farro insieme in questo nuovo complesso museale. E dunque ho deciso di cercarla, Maria Manetti Farro. Buongiorno signor Platero. Allora, devo dire, un progetto straordinario. Io vorrei capire, approfitto del fatto che lei sia un'italiana, che quindi può spiegarci in italiano che cosa significa la filantropia americana. Intanto, cosa vi ha motivato a dare 10 milioni di dollari a questo museo? Scusate, aggiungo, perché poi la coppia Farro-Schramm ha anche dato 1,5 milioni di dollari alla PBS e alla NPR, che sono la National Public Radio, sono, diciamo, le istituzioni pubbliche radio e televisive americane. E poi un'altra cosa molto interessante: 1 milione di dollari all'anno, quindi altri 3 milioni di dollari all'Opera di San Francisco, perché si promuove un programma di interpretazioni dell'opera italiana. Ecco, ho chiuso il quadro. In totale, ho fatto due conti rapidi, sono circa 15 milioni di dollari. Torno alla mia domanda: cosa vi motiva a donare? È un grande piacere donare a organizzazioni che aiutano tutti i giovani per l'educazione, per la cultura, per l'informazione. Io e Jan Schramm siamo venuti qui in America con niente, e abbiamo, fortunatamente, tramite lavoro eccetera, siamo riusciti a fare cose molto buone e bene. Pertanto abbiamo questo grande desiderio durante la nostra vita di dare indietro tutte le cose che noi abbiamo ricevuto qui in questa terra meravigliosa che è l'America. Meravigliosa l'America, meravigliosa naturalmente la California. L'Università di Davis, tra l'altro, mi sembra che sia molto interessante per noi, perché si occupa di studi agricoli e soprattutto di studi del vino, di studi enologici. Sì, assolutamente, è l'università più importante, al pari di Bordeaux e forse con il nuovo istituto di scienze sul vino e il cibo, anche più importante di Bordeaux. E tutti gli studenti che si interessano nell'agricoltura per diventare enologi eccetera vengono a Davis. È molto importante per la veterinaria, anche è una delle più importanti degli Stati Uniti per la veterinaria, per la scuola di legge. Pertanto ci sono 36.000 studenti, e questo nuovo museo tutti gli studenti potranno usufruire, e sarà una cosa molto importante per la preservazione degli studi, formeranno i curatori eccetera. È una grande a disposizione di persone giovani che saranno il futuro degli Stati Uniti. Una cosa che mi colpisce molto è il fatto che poi voi, sia lei che il signor Schramm, abbiate delle proprietà vinicole appunto in California, e quindi c'è anche un legame così emotivo con questa donazione e con questa università. Ci racconti come nasce, perché da noi in Italia è tutto molto più complicato, più oscuro, le leggi sono diverse, penalizzanti. Come nasce l'idea di donare? Come vi è venuto in mente? Conoscevate il chancellor dell'università? Come nasce un'operazione filantropica così importante, la costruzione di un museo? Prima di tutto siamo molto interessati sia all'architettura che all'arte. E la casa vinicola di Jan Schramm si chiama Klopegas e è un contemporary Palladian disegno del grande architetto americano Michael Gray. La nostra amica Margaret Mondavi della Mondavi Winery, che hanno dato, lei e il suo marito, che purtroppo non c'è più con noi, avevano dato 35 milioni di dollari nel passato per creare Robert Mondavi Wine and Food Institute and Robert and Margaret Mondavi Performing Arts Center. E lei sapeva che desideravano costruire il museo e pertanto ha chiesto se eravamo interessati. Noi abbiamo detto di sì, perché siamo sempre stati molto entusiasti e ammiratori di quello che Mondavi avevano fatto, che sono grandi amici nostri, e abbiamo questo grande desiderio di essere in loro compagnia anche dopo la nostra morte. Per questo museo è solo a 45 minuti da San Francisco, ma soprattutto servirà a promuovere la cultura nella gioventù. Ecco, lei dice questo perché il museo avrà il vostro nome, quindi resterà per sempre, diciamo, un museo titolato a voi, che l'avete costruito, e quindi resta una cosa dedicata per sempre a voi. Ecco, lei va spesso in Italia, so che si occupa anche di filantropia in Italia, ma qual è la differenza di mentalità fra l'America e l'Italia in termini di filantropia? Beh, devo dire che quando parlo con i miei compatrioti italiani, l'eredità in Italia viene tutta lasciata ai figli o alle famiglie. Qui in America generalmente magari un 50% alla famiglia e 50% in carità. Penso che il sistema americano sia più migliore, perché loro pensano che la famiglia, i figli devono fare il loro proprio successo, lasciano i soldi ai figli, ma la maggior parte lo lasciano per nella filantropia. Poi esorziamo altre persone a farle. L'idea è che anche quello che abbiamo fatto con l'Opera di San Francisco, The Fund for Great Interpreters for Italian Opera, è per dare proprio iniziativa a altre persone di farlo. Io penso che se in Italia, invece di molte istituzioni che danno per le carità come Fondazione Strozzi, la maggior parte è ente cassa di risparmio, sono banche eccetera, le persone private cominciano a dare, darebbero un esempio a altre persone a fare la stessa cosa. Ecco, c'è però in America, se non sbaglio, anche un'agevolazione fiscale, cioè si possono dedurre certe donazioni, forse in Italia non c'è. È certo, ma l'Italia deve farlo, il governo deve dare un incentivo del genere. Noi qui ce l'abbiamo e siamo molto grateful, ma l'idea di dare indietro quello che uno ha fatto è proprio per aiutare il futuro di tutti i giovani. Sì, ecco, devo dire, questa riflessione è molto importante, la condivido. Io sono qui da tanti anni come Maria Manetti Farlo e devo dire che questo paese è un paese che poggia sull'idea della restituzione, sul fatto che la propria fortuna è stata creata grazie a un paese che poggia sulla libertà, sulla meritocrazia, e dunque sono valori che vanno preservati, ed è molto diffusa al di là della deduzione fiscale. Però io credo che sia importante, visto che da noi c'è uno spirito diverso, forse un po' più egoistico di quello che può essere lo spirito americano, lo spirito dei Founding Fathers, lo spirito dei Pilgrim Fathers. E quindi io credo che il messaggio di Maria Manetti Farlo sia molto importante. Questo governo si sta preparando a cominciare a varare delle misure per la crescita. Non dimentichiamo che il settore della filantropia in America è ormai un grande settore economico. Dunque, nel momento in cui si concedono delle agevolazioni fiscali per donazioni a vantaggio di istituzioni private o pubbliche, beh, a quel punto si mettono in movimento in modo molto più diretto e senza burocrazia anche posti di lavoro, anche la crescita di un altro settore. Ecco, e dunque la speranza ovviamente è che questo succeda. Per chiudere vorrei chiedere a Maria Manetti Farlo di raccontarci che cosa succederà con questo programma dedicato all'opera italiana. Quale sarà la prima performance? Sarà il Rigoletto, l'apertura dell'opera a San Francisco, e un nuovo tenore, Francesco De Muro, farà il suo debutto. a San Francisco il direttore d'orchestra è Nicola Luisotti, che anche è il music director e principal conductor della San Francisco Opera già da 2 anni, e ci saranno altri italiani nel cast. Sarà l'apertura dell'opera a San Francisco, sarà il 7 settembre 2012. Il grande interprete dell'Italian Opera, fund di Ian Schem e Maria Manetti Farro, pertanto noi vogliamo dare un esempio di questa filantropia, e la musica, l'opera, insomma, specialmente per me è la base della mia vita, non potrei vivere senza l'opera. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, spirito natalizio, canzoni natalizie, la penultima della settimana, Sleigh Ride di Andy Williams. It'll nearly be like a picture print by Career and I. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely when the four sleigh ride together with you. Let's take the road before us and sing the chorus or two. Come on, it's lovely when the four sleigh ride together with you. Come on, it's lovely when the four sleigh ride together with you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.